attenzione, binario 10, cambio. Cosa volete dire? Sì, adesso il 25 devo fare questa risonanza magnetica, vediamo un po'. A vedere che cosa c'è qua. Chissà cos'è due. Il signore mi ha detto che lui c'ha la cartilagine consumata lì, ha lo stesso dolore lì. Dove ce l'ho io, solo che è un'altra gamba, però gli hanno detto che si deve operare, però ha detto che non si opera perché dicevo, magari poi mi rovinano. Sì, lo stesso problema che ha mio fratello, la cartilagine consumata nel fremore, e infatti lui sta aspettando che lo chiamino per operarsi, perché con questo dolore dice non si può stare, poi sempre, intanto sta zoppicando, cosa che lui non ha mai avuto niente. Lo fa zoppicare questo dolore, pure anche la notte non riesce a riposare bene perché le fa male, anche con il cazzo, per cui sta aspettando che lo chiamino per fare questa operazione. Io te lo sto dicendo, con le stampelle stavo camminando sino a pochi giorni fa. E stamattina siamo andati in un ufficio, mi hanno visto così, c'era la gente a go-go. Una cosa allucinante, pieno zeppo. E all'accettazione mi hanno detto, aspetti che le timbro, io ho detto, guardi, sono invalido e cosa. Sì, sì, aspetti che le timbro la presenza, mi hanno chiamato in 2 minuti. L'hanno chiamato uno e poi a me. Certo, hanno fatto bene, sono stati generosi, che ti hanno visto così in quelle condizioni, che ti hanno subito sbrigato. Ci vuoi fare? Sai che aveva avuto quello stesso problema? Ce l'ha avuto, non so se te lo conosci, quel bombolaio che c'è in via Gabriele D'Annunzio, Antonio, il bombolaio, uno dei due bombolai, no? Sono due. Cioè, ci sono i meccanici, ci sono vicino, c'è Franco e poi Walter, quello che è vicino a Franco o è il bombolaio o fuori, se ricordo bene, e lui è stato operato a quella, però era andato a Cagliari, era andato per operarsi. Ho capito chi è. Si chiamano Fuis perché si serve un mio amico da loro, lo portano loro la bombola a casa. Cavagava. Vabbè, speriamo che non ci sia nulla di grave. Io vorrei tornare a lavorare, ma come faccio così? Tanto mi non recavo i piedi, sto sempre girando per ufficio e cose, cercando. Questa benedetta cosa, adesso sin quando faccio questa visita poi ripresento il foglio per inabilità al lavoro e speriamo che me la diano, così sino al prossimo anno poi mi danno la pensione. Buonanotte. Speriamo bene allora, perché anche questo è un fatto da risolvere. Certo, se sei in quelle condizioni è chiaro che ti tocca di andare in pensione, ci mancherebbe. purtroppo la vita è così, è crudele. E io stamattina ho fatto la seconda fase della terapia che devo fare, ma dunque, però fisicamente grazie a Dio già mi sento bene, no? non ci sono problemi. Vabbè, il problema potrebbe riaffacciarsi, ma sto facendo la terapia proprio per quel motivo lì, proprio per cercare di non riformarsi questo problema. Scappa, che tipo di terapia stai facendo? Mi iniettano della medicina, della vescica. Ah, e chissà quanto è doloroso, cavolo. E lo sai che il cane mio praticamente c'ha una ciste prostatica, per quello che sta prendendo sangue. Ieri gli ho fatto l'ecografia, la seconda ecografia, e sono riusciti veramente a vedere la ciste. E gli ho detto gli antibiotici. E devo fare per 10 giorni, per 20 giorni l'antibiotico. Vabbè, 10 giorni l'ho già fatto. Adesso altri 10 giorni. Speriamo che li passi, perché se non li passa così lo devo operare. Certo, di solito quando si arriva a queste cose ci vuole sempre l'intervento. Purtroppo è così. Vabbè, comunque. No, non è, il trattamento che mi stanno facendo non è per niente doloroso, però ci sono dei soggetti che magari possono avere degli effetti collaterali. A me, a quanto sembra, non mi fa niente, speriamo bene, cosa vuol dire che già fuori, a lungo andare non lo so se avrò qualche effetto collaterale, però diciamo che almeno al momento, a differenza di altre persone che fa subito effetto, ma effetto tipo che so io bruciore, oppure può dare anche qualche linea di febbre, queste cose così, no? Vomiti può dare, a me sembra che non mi faccia niente, perlomeno fino a questo momento non ho avuto nessun effetto collaterale già. E quante sedute ne devi fare di questa roba qua? Prima per 6 settimane, tutte le settimane, una volta alla settimana. E dopo le 6 settimane, magari 3 volte in un mese, anziché 4, o 2, se non ricordo bene, ma poi me lo diranno a lungo andare loro. E poi si vedrà, poi forse meglio andranno a recuperare per prendere una porzione di tessuto e vedere un po', analizzarlo, non lo so. Allora, interessante che non ti dia problemi. Io guardo, ho fatto tante di collanasse in questo periodo che se non muoio di lampi muoio di droni. Minimo ne ho fatto 4 o 5 di lastre, tra femore, centro della schiena, il piede, insomma, di tutto e di più. Purtroppo così. E tu ancora sei giovane, io vabbè, la mia età ormai ce l'ho, ma tu sei giovane, sei molto più giovane di me, per cui c'è da stare un pochino più di malumore, perché sei ancora giovane, insomma, si sa che a una certa età gli attacchi arrivano, però tu che ancora non hai superato i 60, mi sembra. Per cui va bene, nel senso che non avresti dovuto avere niente. E io 60 non ce li ho ancora, Giulio, non solo di averli superati, non ce li ho ancora, ne ho 59. Io ne ho 17, 18 più di 7, 18 anni più di 7, puoi immaginare già. Insomma, no, però grazie a Dio fisicamente mi sento bene, la verità. Mi muovo bene, posso anche lavorare, per dire, volendo, no, vabbè, non devo lavorare, ma volendo potrei anche lavorare. Solo che questo problema, che adesso vediamo un po', cioè al momento, Marco, al momento tu sei guarito, così mi hanno detto, al momento sei guarito, solo che bisogna vedere se poi si riforma, e allora per evitare che si riformi dobbiamo fare questa terapia che sto facendo, ecco, poi già. E 5 anni per avere una garanzia. sia, sia dopo 5 anni sei tranquilla. Sarebbe da vedere, ma boh, comunque è meglio non prestarci nemmeno, così almeno vediamo un pochino meglio. Ma appunto, non ci pensare, pensa a essere tranquillo e basta. Alla famiglia, tua figlia, tua moglie, e ti raggampa, cosa la devi fare? Bisogna anche conviverci con certe cose. Io quando ho avuto il diabete l'avevo presa male, non riuscivo a accettarla la storia. Certo, perché succede così, quando uno non ha mai avuto niente, così di punto bianco ti ritrovi con un problema, è chiaro che... mentalmente si dà da pensare, è ovvio, ma è una cosa normalissima, però per fortuna esistono anche le cure che oggi ti consentono di tirare avanti, ma neanche, come dico la caccia, è meglio cavare di dopo che molto. Cava. Vabbè. No, c'è problema, Giulio, vedrai che tutto si risolve, via voglia. Io voglio risolvere questa storia della gamba almeno, perché se mi si mette a posto la gamba, io posso rientrare al lavoro, perché posso piegare, posso alzare le braccia, posso inchinarmi a mettere la roba negli scaffali, se no come cavolo faccio? Non riesco neanche a inchinarmi, sono al presente un ruccio. Io penso che lì quando ti faranno l'intervento, se è da essere operato, ti fanno l'intervento e risolvi, perché ho visto che Antonio quel bombolaio, ti stavo dicendo, l'ha fatto l'intervento, sì, per un po' di tempo ha doppicato, quello sì è vero, però considera che lui si mette sulle spalle la bombola e sale anche al piano alto, per cui ho visto che ha risolto. E proprio i pesi che fanno male, lo stavo leggendo, io mi sto documentando perché ho mille paranoie, quindi sto leggendo su internet eccetera eccetera, proprio i pesi fanno male, a furia le cose che possono succedere, prendere freddo, prendere i pesi, lavorare in cella, tutte queste cose qua, tutte cose che faccio io praticamente, in cella ci lavoro, i pesi li sollevo perché sollevo anche le forme di formaggio per tagliarle in due, da 40 kg, non ti dico sono in USA, adesso però non ce la faccio più, adesso gli dico di no, quando mi dicono di sollevare una forma di formaggio gli dico che non ce la faccio, punto. Certo, ma è così, ma io mi ricordo che tanti anni fa avevo fatto, ti sto parlando di più o meno quanto possono essere, all'incirca 10 anni fa più o meno, dai. Avevo fatto un lavoro a Porto Torres, un cliente che aveva comprato un appartamento lì a Lazza, a Porto Torres, l'avevo comprato. E gli avevo fatto tanti lavori, tra questi anche le porte. E c'erano, mi sembra, una decina di porte in quell'appartamento, una cosa del genere. Dunque io le ho portate, allora avevo molto caro, se ricorderai, no? E le ho portate su a uno a uno, al secondo piano, queste porte. Poi, dopo che le avevo portato le porte nuove, ho scaricato le porte vecchie e le ho portate, le ho portate in falegnameria per fare a pezzi, per distruggere, che poi sono andati a Davide, io ho tutti fatti a pezzi, distrutti, 9 porte, poi magari 9 o 10 che erano per la stufa, per la legna, infatti la davo sempre a lui la legna. E devo dire che avevo anch'io accusato questo nome così lì al femore, però evidentemente era stato un momento, una specie di borsicca avevo avuto, non lo so, e mi ho tenuto per un bel po' di tempo, almeno un mesetto buono che mi faceva male, infatti quando mi coricavo su quel fianco non potevo stare, quando mi giravo su quel fianco, però poi col tempo mi è passato già, non ho più sentito quel dolore lì. Avrei voluto che fossi io così, io sono mesi. Guarda, lavoro me la stavo trascinando proprio, cioè da farmi male, da morire, e che continuavo già in pescheria, già di qua, già di là, e io che trottavo da una parte all'altra, non ce la facevo più, guarda. Diciamo che se dovesse passarmi rientro subito, se no non rientro, non ce la faccio più, così non ce la faccio. È proprio una cosa più forte di me, io vorrei rientrare. Ah, è una cosa più forte di me, il dolore è troppo forte, non ce la fai. Già lo credo, e poi specialmente lì, tutto il peso della persona, se ricade su quel punto, perché è ovvio che rimane così. Lo so, infatti te lo sto dicendo, anch'io quel periodo lo sentivo abbastanza, caspita, non lo duplicavo, però lo sentivo, il dolore lo sentivo, addirittura quando mi collegavo, mi mettevo su quel fianco, non riuscivo a resistere, e dovevo girare dall'altra parte subito, perché non era possibile. Vabbè, comunque, quello è stata qualche infiammazione che io ho avuto, magari con lo sforzo che ho fatto, tutte quelle scale, con quel peso sulla schiena, portando sulle porte, e dunque, la porta, bene o male, io penso che quei 70 kg si peseranno, suppongo di sì, se non anche di più, per dire, no? E allora, quel giorno, poi ho visto che avevo questo problema e sì, cercavo di prendere il meno possibile, mi è passato comunque. Lo so, però io è inutile che mi curi, poi ritorni lì a fare di nuovo gli sforzi e ti viene fortissimo come ce l'avevo prima. Io prima stavo camminando con la stampella, adesso un po', grazie a Dio, riesco a mettere il piede in terra, anche se mi stanco subito perché mi fa male. Però la stampella un po' l'ho eliminata, la prendo solo determinati giorni che mi fa più male, e allora la prendo. Ma per dire, sino a pochi giorni fa c'avevo la stampella sempre. Se sbaglio un vizio, se mi vergognavo anche a uscire con la stampella, ci credi? Sembrava che lo vendi a finta, mi dava anche fastidio. E quello di sopra l'hanno operata la schiena, l'hanno tenuto una settimana a Bergamo. E hanno messo, è un'operazione non ben lunga è stata. L'hanno operato dalle 2, è uscito alle 7, figurati. Ed è stata molto lunga come operazione, gliel'ho messo delle placche, però è presente come camminano quei vecchi decrepiti curvi, così era lui, e c'ha 39 anni. E praticamente che cosa è successo? Che gli hanno messo delle placche di ferri in titanio, ne hanno fatto due buchi e poi gli hanno messo questa fascia. Arrivati all'aeroporto per tornare indietro, gli ha suonato il coso, l'allarme, e praticamente gli ha detto lui che l'hanno avevano appena operato e che c'è questa fascia, va questa fascia attorno, e dice scusi ma non se la può togliere la fascia? No, lei per togliermi la fascia ci deve essere un medico e una barella dove io mi posso sdraiare, così io davanti a tutti la fascia non me la tolgo, anche perché ho delle ferite grosse, c'ha addirittura le ferite, me le ha fatte vedere a me dopo che l'hanno operato, perché le hanno fatte le infermiere, gliel'ha chiesto lui di farle, e c'ha le graffette, c'ha al posto del filo, c'ha proprio le graffette in ferro. Mi ricordo una volta ero in una banca, quella che c'è su vicino alle piscine, su, come si chiama, in quella zona lì c'è una banca, no? E a un certo momento io dentro, arriva ragazzi, vestito da lavoro, era uno di quelli che lavorava per le strade, faceva gli scavi per le strade, e aveva le scarpe da lavoro, quelli con la punta di metallo. Quando passava nella porta suonava, quando l'hanno visto l'hanno bloccato subito, quando l'ho visto che hanno suonato, l'hanno bloccato la porta che non apriva, e lui ha cominciato da fuori a parlare a voce alta, e diceva io devo cambiare la segna, pure anche perché ormai eravamo il venerdì, eravamo, e dovevo cambiare la segna perché gli servivano i soldi, che avevano appena certo il detegno. E non volevano far entrare, sai cosa ha fatto questo? Ha preso e si era tolto le scarpe. Ed è entrato, ha messo le scarpe fuori, ha messo nell'ingresso ed è entrato scalzo. Ma via le gassette per ogni buco della casa, ragazzi, poveraccio che era uscito dal cantiere, dal lavoro, avevo fatto dal cantiere che c'erano gli scavi per strada e direttamente ha cambiato l'assegno e non lo volevano far entrare, però poi alla fine è entrato scalzo e gli hanno fatto entrare. Poveraccio, sì, perché quelle scarpe antifurturistiche c'erano la punta e la spola sotto in ferro. Sono pesanti quelle scarpe, io non le posso portare quelle scarpe vie. Praticamente mi hanno fatto un foglio dove c'ho l'esenzione, presentato alla ditta, non le posso portare di quelle scarpe lì. Beh certo, ce lo credo. Per dire, no, ma questo poveraccio non l'ho fatto pena, tu non vedevi, era tutto pieno di terriccio da tutti gli altri, beh, era però uscito dal lavoro e questo era arrivato lì. Ma lui non si è preso l'animo, no, non me lo frega niente, dice, a me il sud del mio forno, non male, se no, dice, come faccio a fare la spesa? E allora, si è accavato le botti, è entrato, poveraccio, tutti quanti, ma guarda un po', ma quando ora ha detto questo poveretto, capita, solo perché aveva le scarpe così non lo facevano entrare. Non l'hanno fatto entrare, fin quando non si è tolto le scarpe. Perché lui diceva, sono le scarpe che rompono, le scarpe tanti futuristiche che fanno questo lavoro, questo rispetto. No, non ci pigliamo, non può entrare, assolutamente. Appena le fine accavate le volte. Poveraccio. Che umiliazione, Gaffello, dai, aiuto babaccio. Poi specialmente se vanno i gattetti brutti, tutti i gatti bucati, che figura di cavolo, davanti a tutta questa gente che c'è la puzza sotto il naso, questa gente che manca. Infatti è stata un'umiliazione per questo poveretto, poveraccio. Poi naturalmente, come lo sai benissimo, c'è sempre qualcuno che critica, no? Se mi abbandono di lui sul randaggio, sai come parla la gente a questa rete, poi alla lingua lunga tra l'altro, ed è certo tanto. Poi c'erano quelli perché il poveretto, ma se stava lavorando questo se andava a cambiarsi a casa sua, non avrebbe fatto in tempo a venire in manca per cambiare la segno. Dammi i soldi del mio collo, ma quello poi mi ha detto anche, dammi i soldi del mio collo e domani devo fare la spesa, e cosa vedo a miei figli a mangiare domani, che non ci sono soldi, e se non cambio l'assegno chi è che me li cambia, chi è che me ne dà i soldi per fare la spesa domani, capito? E dunque, poveraccio, è stata un'umiliazione per lui, se sei così. E poi se tornava anche indietro, uno non si cambia senza lavarsi, no, non fa, non si mette la roba sulla scorsizia che c'è addosso, perché lavorando già lo sai com'è, la terra, di tutto e di più, la polvere che prendo. E uno se si cambia, prima si lava e poi si cambia, non è che si veste così con il cemento addosso. Ma addirittura, tu pensa che aveva fatto dei lavori, nella fogna addirittura, c'era la strada aperta con la zona stessa, e stava lavorando nella fogna appunto, nella rete fognaria, figurati quel poveretto che è andato agli umiliazioni. Infatti, quando se n'è andato, perché l'hanno mandato via subito, subito, gli hanno cambiato la sedia, e hanno detto, no, non possiamo passare, ma fatelo passare subito, ma cosa andate a fare? La pila anche così deve fare, in queste condizioni. L'hanno fatto passare subito, e poi già, anch'io già glielo ho detto a qualcuno che stava criticando, ma quando mai si permette di criticare una persona, questo qui è un lavoratore, non hai capito? Ma secondo te una persona si umilierebbe così se non fosse una necessità urgente, è una cosa... infatti c'erano qui, no, bisogna criticarlo, poveretto, stiamo lavorando, volevo dire, d'altronde è così. Ma c'è sempre qualche imbecille che già lo sai, no? Con la lingua lunga che parla in malo modo. Gente che queste difficoltà forse non ce le ha perché c'è la pappa pronta, capito? E non sa manco cosa vuol dire lavorare certa gente, perché se no non l'avrebbero detto. Io invece ho assistito una volta, ero al bar che bevevo un caffè, è entrato un signore vestito da muratore, là, con le scarpe da muratore, un po' con un po' di cemento sopra e cose, e ha chiesto un caffè. Quello del bar gli ha detto di andarsene via, che non era in condizione di presentarsi al bar. Cazzo, un po' così incazzato questo qua, gli ha detto tutti colui. E era quello, e ha fatto bene, eppure non lo potevano andare via, non lo potevano andare via assolutamente. E vabbè, purtroppo è così, ci sono queste persone che non capiscono, perché si tratta proprio di deficienze. Guarda, io ho sempre detto, chi mantiene in piedi il mondo sono proprio i lavoratori, quelli che lavorano con quel tipo di lavoro manuale, così. Dunque, sono quelle le persone da apprezzare, più di quelle che stanno seduti ad esempio o dalla mattina alla sera davanti alla scrivania con la puzza sotto il naso. Sono quelle le persone che meritano di essere apprezzate. I lavoratori, perché sono quelli che mantengono il mondo in piedi. Certo. Senza gli operai non ci sarebbe niente. Quelli che fanno il lavoro manuale non è solo a parlare, a dire fai così, fai cosà, bisogna fare le cose. E così erano i miei principali, dove sei, dove non sei, quando ero in giro col camion, e dove sono, sto consegnando. Ma sbrigati perché c'è una consegna urgente. Sì, ma io sto sempre consegnando, c'ho una consegna grossa che è un camion di roba. Adesso quando finisco di scaricare vengo, punto. Certo, questo che non sai che è così. Loro non sono mai contenti, non sono mai soddisfatti di quello che un dipendente può fare. Purtroppo è così. Oi, ma cosa vuoi che ti dica già? Il lavoratore è stato sempre visto male agli occhi di questa gente. Perché quelli sono dei miserabili, sono proprio quelle persone che criticano il lavoratore. E ha detto, ma vedi che tutto quello che vediamo con Dio che è fatto da lavoratore, non ha ancora capito. Ma cosa qui, anche se tu cosa fai tu? Anche se tu sei un impiegato, per dire, o un dottore, tutto quello che ti passa tra le mani, ce l'ha fatto il lavoratore, non hai fatto nulla. Perché tu praticamente ti trovi con la pappa pronta, ti trovi. E tutto quello che tu utilizzi, è tutto quello che puoi fare tu, lo fai proprio perché il lavoratore ti ha permesso di farlo questo, perché ti ha messo in condizione di poterlo fare, se no non avresti tu lavorato. E sai quante volte ho avuto discussioni del genere io con certe persone, ma non c'è niente da fare, no? Non è, il lavoratore non è apprezzato e basta, o già. Sì. Gente, quella gente lì vuole anche lavoro gratis. Se chiama qualche operaio, quando gli dici il prezzo, no, troppo caro, troppo qua, troppo là, tirano il brigio, compreso. E hanno i soldi da navigarci dentro. Infatti adesso, prima già facevano sconti e cose, adesso l'operaio sa cosa fa, ti dice il prezzo, se non ti va bene, arrivederci e grazie, si manda, non ti va, sì. Va bene. Io penso che sia arrivato il momento di farsi rispettare, proprio. Il lavoratore si dovrebbe far rispettare, senza pensare che poi se si è rivolta, ragazzi, se gira il lavoratore, mette sotto sopra il mondo, e a questi fannulloni, perché quelli sono fannulloni, gente che non ha mai fatto e non ha mai sofferto in vita, ci sarebbe di mettergli a testa in giù tutti quanti, per carità, purtroppo è così già. E ti dirò di più, è il lavoratore in grado di poterlo fare questo, perché anche per un fatto di forza fisica, eccetera, devo pigliare e buon da capo a terra questa gente, a fargli capire che non è come pensano loro. È un bel casino, è un bel casino. E vabbè. Se ne renderanno conto solo se non ci saranno più operai a fare le cose che vogliono loro, allora se le dovranno fare da soli. Ah, io guarda, c'ho per dirti, c'ho una dottoressa io adesso, sì, che sta andando in pensione e la stanno sostituendo altre due dottoresse. Adesso devo fare un modello SS3. Non sanno come si fa. Cioè, per questa inabilità al lavoro devo fare l'SS3, che praticamente è un documento dove tu presenti tutti gli esami fatti e ti fa, diciamo, un riepilogo di tutto la tua dottoressa, e poi lo devi presentare al CAF, no? Beh, praticamente non al CAF, come si chiama, non mi viene, comunque al patronato. Questa dottoressa ha detto che non era possibile, che non trovava questo tipo. Beh, sono state un'ora e mezza, una che lo chiedeva all'altra, in due non ne valeva niuna, e non riuscivano a fare questo certificato, tant'è vero che ieri sera mi ha telefonato per vedere se avevo risolto. E cosa ho risolto? Il certificato dovete fare voi, come faccio a risolverlo? Perché io non l'ho mai fatto, ma qua, ma là, non so, però adesso, stamattina sono dovuto andare di nuovo al patronato e farmi dire che passaggi doveva fare per fare questo documento, perché se no non li cavavano i bini. Figuriamoci, non è possibile, ragazzi. Vabbè, purtroppo hanno i posti migliori, magari ce li hanno loro, questa gente qua, sono incapaci di farlo. Purtroppo è così, cosa vuoi che ti dica? Questa Italia vuole rivista dal sud sino al nord, vuole rivista tutta, perché non è possibile che si possa continuare in queste condizioni. C'è troppa gente che non fa niente, ma io dico questo, quando vedo tutte queste persone che continuamente parlano, dicono sempre tutte le stesse cose, tutti si lamentano, tutti dicono che bisogna fare, però poi non fa niente nessuno. Io parlo dei politici, no? Quest'altro, i magnati, i ladri che ci stanno amministrando, per carità, che vergogna, che vergogna. Poi non si riesce a venire a capo di niente, perché hanno solo la lingua lunga a parlare e criticarsi l'uno con l'altro, però a fare cose concrete non è capace nessuno, e quando si mettono a fare, prendi adesso quel ponte che era crollato a Genova, ne hanno già arrestato due, ne hanno arrestato, perché? Perché ci hanno già mangiato i soldi che erano stati messi per poter fare il lavoro. Perditi la giovestà che c'è in questo mondo, è una vergogna. C'è la mafia in mezzo lì, quel ponte di Genova. C'è la mafia in mezzo. Hanno scoperto che è gestito dalla mafia. C'è dappertutto, la mafia c'è dappertutto. Dappertutto c'è la mafia, è veramente una vergogna. Non è possibile. Possibile che tu vai in qualsiasi ufficio che vai, ragazzi, ti fanno aspettare delle ore interminabili, non riescono mai a risolverti il problema, e tu devi aspettare, devi pazientare, purtroppo è così. Sì, poi quando tocca a te ti dicono che non si può fare nulla e ti ho aspettato tutta la mattina per darti una risposta negativa, poi forse è stata positiva, perché stamattina sono andato lì all'ufficio delle entrate e c'era il mondo, cavolo, perché quando ho fatto il 7.30 praticamente mi stavano mettendo l'assegno di Renzi e praticamente adesso devo restituire i soldi perché dice che non mi aspettava. Ma se è che non mi aspetta, perché me li dai su? Infatti, perché non sanno fare il loro lavoro, ecco perché loro non sanno fare il loro lavoro, il problema è quello. E allora, e quelle persone che magari addirittura le tolgono i soldi dalla pensione, magari li rateizzano, perché magari per anni gli hanno dato, secondo i loro conti, gli hanno dato di più. Poi alla fine glieli studi, tu a un poveretto glieli studi, è già minima la pensione, tu gliela studi anche, non è possibile. Dici, ma perché se abbiamo dato in più abbiamo sbagliato, eccetera, eccetera. Perché ma te che hai sbagliato? Io ho fatto i conti. Me la mangiate voi, non è che sono venuti io a rubarmelo. Però quando ce li danno in meno loro, poi a chi lo sa? Chi lo sa? Loro sanno fare bene i conti, noi. Se ce li danno in meno magari manco ce ne accorgiamo. Lascia perdere. E comunque non si può fare nulla. Ho chiesto se si poteva rottizzare, se si poteva niente, non si può fare nulla. Devi pagarli tutti in una volta e via. Boh, basta. Sì, infatti è così. E non lo sei trappare. Se ti chiedi, magari ti cercano anche quando non devi dare niente, perché loro non fanno bene le cose che devono fare. Sai quanta gente c'è che si è lamentata, ragazzi, che mi hanno cercato poi nell'ufficio delle entrate, quando io lì ho sempre pagato tutto quanto, mi hanno mandato una cartella da pagare, non so di quanto. Ma come si fa? Come si fa, guarda? Ma quando mai? Non deve risultare tutto in ordine. E allora tu devi stare lì, fa passeggiate a non finire, commercialisti, questo, basta. E loro continuano a chiamarti, continuano a dirti che devi dare. Non se ne capisce più niente, guarda. Io quest'anno per il 7.30 ho speso 35 euro perché sono iscritto al sindacato, più 40 euro dal commercialista per farmelo revisionare per paura che ci fosse errore. Volevo essere sicuro prima di pagare se c'era errore o no, invece errore non ce n'è. Mi ha detto che l'unica cosa che si può fare è il prossimo anno invece che fare 7.30 a fare il 7.40, che se vabbè non c'è più lo chiamano con un altro nome, però almeno lì dice gli interessi non li paghi, almeno qualche cosa te la recuperi, capiti? Perché guarda, casino, è un bello casino, Giulio, davvero, Sì, sto dicendo, l'Italia è messa male, veramente, no? Non se ne capisce un accidente, gente incompetente, gente disonesta, in ogni angolo della strada, per carità. E quelli che pagavano e davano i soldi per pagare, per fare investimenti, eccetera, al commercialista, il commercialista pur magari che non te ne restava, anche quelli, ma a me non mi hanno mai buttito, perché io cosa devo andare a pagare? Vado di persona, a pagare le tasse, vado di persona in banca, e la ricevuta ce l'ho io. E invece ci sono di quelli che si fidano del commercialista, li danno al commercialista per andare poi a fare investimenti delle tasse, eccetera, e poi si ritrovano che non gliel'hanno versato e dunque ti cercano per pagare. E sai quanta gente c'è che è stata fregata in questo modo? Auguria. No, io non do nulla al commercialista. Io guarda, quando c'è da andare in banca vado al tabacchino che c'è in via Pietromica, non pago né tasse né nulla, pago solo quello che c'è scritto da pagare, basta. Importo solo che c'è scritto e basta, perché quello ha lo sportello della San Paolo IMI. Praticamente è come se stessi andando in banca, vai lì e ti fanno tutto. Sì, certo. Anche in via Pascoli. Anche via Pascoli di fronte alla Cobbe che fanno tutto quanto. Infatti io le bollette le pago sempre lì. No, ma io parlo di quando stavo lavorando io, no? E dovevo, mi chiamava per dire, non so, o andavo da commercialista quando era per dire sul periodo di versare l'IVA, oppure il periodo di versare i soldi per i contributi, eccetera. E andavo sempre io, no. Se vuole li vado io, non ci vado io, così mi faccio anche due passi, perché ho voglia delle volte di camminare, e andavo io sempre in banca. Non ho mai dato niente a loro, soldi in mano a nessuno, non se ne danno. Tu dimmi la cifra che devo versare, preparami il documento, me lo dai e vado io a versarlo, e vado io a pagare. No, perché intanto io trovo una scusa, no, intanto io devo prelevare, perché vado lì con la banca, sono correntista e non c'è problema, capito? E facevo così, non gli ho mai dato soldi a loro io, è tanti anni secchia. E io lo stesso. Ma hai visto ieri chi l'ha visto? Non so se hai visto quel programma, chi l'ha visto ieri. No, non lo guardo mai io quel programma. Beh, praticamente c'era una truffa. prendevano da internet le fotografie di personaggi belli, anche di attori, di coso, belle persone, e praticamente anche estere, e in Italia chiedevano l'amicizia a certe donne, coso, queste donne le facevano innamorare, le facevano sentire delle principesse, in poco tempo queste persone si lasciavano abbindolare, no? C'è stato il caso di questo qua che dice che faceva il pilota d'aereo, quando doveva andare a trovare lui diceva che l'aereo non era partito perché ha avuto un guasto, trovava sempre delle scuse, no? E praticamente poi l'ultima volta che doveva andare dice che ha avuto un incidente d'auto, si è sbarrato la macchina e doveva aggiustarsela, se rimandava qualche soldo che poi ce l'avrebbe restituiti, e si è fatto mandare 50.000 euro, capito? E praticamente questa scema che era innamorata si è cascata, prima gli ha mandato quelli, poi gli hanno mandato altri 20.000, ha dovuto chiedere anche dei soldi alla finanziaria perché non ce li aveva per mandarli a lui, e poi ha scoperto che era fasulla, e la fotografia che mandava non era di un attore che era, per dire, in Inghilterra, che non era conosciuto qua, capito? Ma anche lì ad essere così stupida, ma quando mai uno accetta, deve mandare il soldo a una persona che non l'ha mai vista, anche se te lo fa vedere le fotografie, e solo quello, ma lo fanno, ma lo fanno anche qua a Sassari gli traffici, tipo che so io, gente che si presenta a casa dei vecchietti per chiedere, signora, suo figlio ha avuto un incidente in macchina, deve pagare subito, per dire, non so, 3.000 euro, perché se lo poi lo denunciano, lo fanno la polizia, lo denuncia, se invece paga subito lo finisce tutto lì, vestiti addirittura da agente, da carabinieri, vanno vestiti poi da poliziotti, e la gente ci casca, più di una volta si sono sentite queste cose qua, anche qui a Sassari, per cui si può immaginare. Poi la gente ancora che si deve svegliare prima di dare i soldi in mano alle persone, così non si può, dai, già. Giulio, questa che ha fregato era una persona che pensava di non piacere a nessuno perché la verità era bruttina, complessata, il suo complesso era di non piacere, questo qui l'ha fatta sentire una principessa, le diceva che non era vero che era brutta, che era una bellissima donna, che lui l'amava, che questo e quell'altro. La mattina gli scriveva ciao principessa, hai dormito bene, tutte queste cose qua, capito? Ma non ne ha fregato una sola, ne ha fregato una giarata, capito? Ce n'erano tante che avevano denunciato e che praticamente mettevano le facce dei tipi, perché poi lo stesso tipo ha fregato due o tre persone, capito? Con la stessa faccia. Figuriamoci. E vabbè, però quelle persone che ci cascano così è gente che si deve svegliare già. Non è possibile, soprattutto la persona adulta, come fai tu a farti fregare e a credere a certe favole? Capita, poi tramite il computer così, no, non è possibile, dai. Bisogna essere molto stupidi, ma stupidi veramente, se no uno non può essere fregato, assolutamente. Sai cos'è? Prendono la persona nella loro debolezza. Un'altra era vedova, aveva sofferto tanti anni per la morte del marito, questo e quell'altro, e lui gli diceva che praticamente anche a lui gli era morta la moglie, che aveva una figlia, che qua che là, e lei si è trovata praticamente nella stessa sua situazione, si confidava, lui gli dava consigli, quindi lei si è innamorata perdutamente di questa persona, capito? È fregato a gogo, no, non poche, no. C'era una sfida di fotografie di quelle che mandavano e che fregavano le persone, tante non hanno fatto la denuncia perché si vergognavano. Una addirittura non sapeva come dirlo al marito, perché l'aveva fatto di nascosto, aveva prosciugato tutto il conto. d'accordo. E siccome lei stava facendo una cosa che non era ben fatta, visto che era sposata, aveva paura di dirlo al marito, quindi ha chiesto a chi l'ha visto di andare lì e aiutarla a dirle questa cosa. Beh, il marito dice che è stato comprensivo perché era innamorato e praticamente l'ha capita, gli ha detto vabbè non farne più di queste cose, cerca se l'ha svuotato il gottubaro. E quello lì dice che fanno vita a pascià e tutto quanto viene dall'Africa. Immaginati tu, non sono, sono dei primitivi e intanto cavolo fanno le truffe. Lo so, e anche per quando io avevo sentito una donna, quando il marito gli portava lo stipendio settimanalmente, perché l'ha pagato la settimana, no? E lui prendeva i soldi e le dava, quasi tutti le dava al prete, gli portava in chiesa, gli portava. Quando dopo due giorni si lamentava che non aveva più soldi a casa, ma come non hai più soldi? E non mi ha messo, si è tirato lo stipendio tutta la settimana intera, e tu dopo due giorni mi dici che non hai più soldi. E cos'era? Poi alla fine il marito aveva scoperto che lui i soldi li prendeva e tutte le settimane li portava al prete. E nel frattempo, quando non aveva soldi, cosa faceva? Andava in questo genere alimentare e comprava la spesa, la faceva a segnare, no? A libretto. Capita, poi a un certo punto il conto era diventato alto, quella del negozio ha reclamato soldi e siccome lì non li poteva pagare perché i soldi non ce l'aveva, e allora è andato direttamente a casa sua, proprio quando c'era il marito di questa donna. Capita, ti puoi immaginare che cosa può essere successo? Vabbè, ce ne sono donne così che fanno le cose di nascosto, mi ho sconosciuto che si prendevano finanziarie di nascosto, pure non ce la facevano a pagarle, chiedevano i soldi a te, eccetera, eccetera, e a Vuglia. E io ho sempre detto, le cose si devono fare in due, quando si vive in due bisogna farle in due, essere d'accordo tutti e due, se si può fare si fa, se non si può fare non si fa, però mai fare una cosa di nascosto dell'altro, perché poi succedono i casini. Infatti, se non c'è d'accordo in casa, in famiglia, è chiaro che succedono casini, glielo credo. Un altro, lo stesso, era stata abbindolata da questi testimoni di Geova e incominciava a portare via tutto. Anche gli abiti del marito aveva portato in questa sede dove andava, la sera andava, da questi testimoni di Geova. Capita, e il marito a un certo punto andava a cercare gli abiti e non c'erano più. E dove sono finiti gli abiti? E lei le trovava delle scuse, non so che scuse li trovasse. Poi alla fine ha capito che erano quelli di Geova che l'avevano convinta, tutto loro che aveva a casa, eccetera. Tutto a questi testimoni di Geova portava, questa deficiente di donna, per dirti, no? Ed è una donna che io conosco anche molto bene, questa tra l'altro. E poi alla fine cosa è successo? È successo che il marito non gli ha dato più un centesimo in mano, non gli ha dato, perché gli dava i soldi, gli dava tutto quello che aveva a casa, addirittura anche le pentole gli ha portato a questa sede di Geova. Sono degli sfruttatori quelli che non finiscono mai, lo stesso? Sono sette. Tu pensa che se uno se ne va, per dire ci sono i genitori, i figli, il padre, se per dire la figlia se ne va, non la parlano più, non la guardano più in faccia, io ho visto un programma. Non ti salutano, non ti vogliono più in casa, proprio è un tradimento per loro. Ho detto, Giulio, ma cosa c'è il cane? Si sente abbaiare il cane? No, fuori c'è il cane, come c'è la porta anche aperta, per cui se c'è la persiana abbassata, e allora quando abbaia il cane si sente anche da lontano, capito? Questo microfono raccoglie tutto. Si sentiva proprio chiaro, sembrava lì. Lo so, la casa qui lì a fianco dove abito io, hanno il cane, che basta che senta un piccolo rumorino, quel cane subito abbaia. Incredibile, ragazzi. E vabbè, anche quella, meno male che non abbaia di notte, se no guai. No, il mio non è così, il mio non abbaia. Il mio, se sento rumori, si avvicina alla porta e comincia così, no? Io mi accorgo che c'è qualche cosa nuova, guardo se vedo lo spioncino, poi se vedo che gente magari che sta entrando nella porta di fronte, che conosco, non c'è problema. Se no, se vedo che gente che non è, mi apro la bravariana e mi posso sciruggare. Certo, te lo dico. Caspita, era già rotto per 4 sopra, è una serata passata già, anche stasera, e non è entrato nessuno in perfetta, Sì, chissà che ti vedo la legge di Bu, ti piace ascoltare, non entrano. E se no l'altro giorno è arrivato il medico fiscale a casa, siccome c'è un amico sempre quando viene a trovarmi, quando suona dice il medico fiscale, e praticamente l'altro giorno hanno suonato il campanello e mi fa, gli faccio chi è? Il medico fiscale, io ho pensato che era lui, poi pensandoci bene ero a petto nudo, in calzoncini, e praticamente sono andato a mettermi una maglietta e detto non mi sembra la voce di Marco, e in effetti era così, ho lasciato però la porta aperta quando sono andato a mettermi la maglietta, il cane è rimasto davanti alla porta, quando è arrivato il medico fiscale con la valigetta, il cane è rimasto lì, non lo faceva entrare, dice questo cane, ho sentito, ha detto sì sì non fa niente, lo sa lì che non fa niente, io non lo so, vabbè, l'ho fatto entrare dentro ed è entrato in casa, no? Certo, è ovvio. Tanta gente è così, quante volte andavo io magari nelle case per del lavoro eccetera, e c'erano delle persone che avevano il cane, cominciavano a abbaiare. Una volta mi chiamano in via Giotto, hanno tocco il cuore, già non sai dove è via Giotto, no? A questo qui per cambiare la serratura della porta, l'ingresso. E sono andato già con la serratura e tutto quanto, pronto. Vado lì, caspita, come entro in questa casa, Gianni, non te ne dico niente, una puzza, una cosa tremenda, tremenda, là, guarda, dalla sporcizia. E questa era una donna sola, che abitava sola lì, che il marito deve essere che era morto, non lo so, qualcosa del genere. E c'era un cane, altissimo, grandissimo, un cane lupo. E in questo ingresso, tu devi vedere, c'era un sacco, tu immaginati un sacco di quelli che una volta si metteva la farina, eccetera, no? Pieno di immondezza era questo sacco qua, di quella grandezza. Per terra c'erano certe cose di cane, e non te lo dico perché fa anche schifo, ha sentito, tutto sporco per terra dal cane. E io faccio un lavoro qua, vai, ho visto così, me ne sono andato, signora, me ne sono andato subito, se lo faccio fare da un altro che io non c'entro nel porcellaio, ti ho detto. Io vabbè la tozza è da Baro, perché se tu vieni a casa non senti né odore di cane né odore di nulla, è sempre profumato, non si sente manco l'odore del cane, mai la gente che è venuta qua mai ha detto c'è odore di cane, niente, perché io lavo, profumo, faccio e cambio le coperte che li metto sul divano, perché quando si sdraia magari non lasci più le cose, li metto le copertine sue, e poi quando la gente si deve sedere le tolgo, però intanto quando siamo noi solo li metto sempre queste coperte, quello gliele cambio sempre, ogni settimana io gliele lavo e sono sempre pulite, non vi dite di bucarie notte. E dopo il mio cane, guarda, almeno che sia diarrea, cose del genere, ma non ne fa di cose a casa, aspetta, può crepare ma non ne fa. Ma se ti sto dicendo, io non so come fa una donna a non azzardarsi a raccogliere lo sterco del cane, se ti sto dicendo, la mondezza che faceva lì stessa, la prendeva e la metteva dentro questo sacco. Ma un sacco alto mio, alto, ti immagini quanto è grande quei sacchi di una volta dove si usava, dove portava la farina, un sacco così grande era, però era di plastica, no? Un sacco di quella misura lì, pieno, poi tra l'altro era plastica di quello bianco anche, trasparente, perché si vedeva tutto quello che c'era dentro questo sacco. una monnetta dentro questo sacco. Ma dove me l'ho detto? Questa qui è un gettito, non è una casa questa qui. Me ne sono andato, non gliel'ho fatto. Adesso te lo dico io cosa faccio in valigia. Siccome non aveva voglia di uscire per portare il cane, se ne la faceva fare in casa. Ce n'è tanta gente così, non ti credere. Quando piove, io so di una signora che me l'ha detto, lei dice quando piove, anch'io sempre, io lo porto sempre, a vuole essere che mi metto sotto un albero quando piove, però non la faccio fare. E questo qua detto, no, io li metto i giornali in casa, la faccio i giornali e poi ce la butto via. No, non è possibile. Non è possibile, purtroppo sono così, non sono tutti uguali le persone già. Ma l'igiene è una, amici, Giulio, per poco di va, può essere diverso, ma quando si tratta di igiene devi essere pulito e basta, per poco di va. Un solo metodo, cioè essere puliti e basta per avere l'igiene. Io addirittura li metto tanti batterici per pulire, quando pulisco ci metto il detersivo normale più l'antibatterico, capito? Pulisco tutto quanto a fondo, tutto quanto. Vabbè, quando c'è l'animale deve essere così. Il mio cane si può coricare nel letto, perché il mio cane non ha mai avuto né pulci, né pidocchi, né zecche, niente, perché è sempre con la fiala, li metto la fiala e tutto quanto, come d'altronde penso facciano quasi tutti, ma ci sono persone che non li vaccinano nemmeno i cani. C'è gente in Piazza della Meridiana che c'è cani senza essere vaccinati, e pitbull, no, cani piccoli, o quello che ha morso in cattatese non era vaccinato. Incredibile, purtroppo il cane, se uno ce l'ha, lo deve saper tenere anche, no? Non puoi permetterti di trattarlo in quel modo lì, che è una vergogna veramente. La preferenza non le prende il cane e basta. Ma se uno proprio lo vuole avere, lo devi trattare come si deve, lo devi curare, lo devi pulire. Ma è chiaro che deve essere così. Cioè, così Antonello anche gli pucchi lo porta al lavaggio, lo porta sempre, lo fa lavare quella specie di ufficio, lo fa tosare, lo fa lavare, lo fa fare tutte le punture necessarie, tutte queste cose qua lo controlla continuamente, anche se non ha necessità, lo porta dal veterinario per controllare. Caspita, Antonello sì che lo tiene bene veramente il cane, ma bene, bene, bene, bene, veramente, va. È sempre bello pulito, tu vedi questo cane, è una bella vita questo cane. Ma già l'ho visto, avanti break, io sto per chiudere, avanti. Adesso si sente un po' più forte, dai. Aspetta che te lo dico, controllo, per me, un pomeriggio. Buonasera innanzitutto, in compagnia di Giulio Dollaro. Prova a venire avanti che ho messo gli occhiali. Dai, sei un Santiago di 5 e una radio di 4 adesso, dai, già vai meglio di prima. Che antenna hai messo? Ah, KK. Giulio, l'ascolti l'amico? No, non lo sento per niente, già. Non arriva qua. Nemmeno il segnale, niente. Chi è? Lupo grigio del Cappuccini, comportabile. Ah, è sempre così fa lui, ma non ci arriva qua, purtroppo è così. Già lo so, ogni tanto si affaccia, ma non è in condizioni buone di antenna, eccetera, dunque non ci arriva qua, qui da me non ci arriva. Vabbè, dai, già, sono le 8:05 circa, allora io lo chiudo, ci sentiamo, dai, tanto che tu stai chiudendo, mi sembra che hai già preannunciato che devi chiudere, ci sentiamo le prossime. Ciao già, grazie alla chiacchieratina, dai, a domani se coincide, ciao. Ciao Giulio, ciao Lupo Grigio, dai, sto chiudendo anch'io, buona serata a tutti, ciao.